Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Sono storie degli anni 70, storie di giovani uccisi per le loro idee e storie che si snodano proprio come una trama di un film. Roma, quartiere di Primavalle, 15 ottobre 1973, interno, notte. Manlio Grillo, Marino Clavo, Achille Lollo sono tutti militanti di Potere Operaio. Si recano davanti all'abitazione di Mario Mattei, segretario del Movimento Sociale Italiano di zona. Grillo, Clavo e Lollo appoggiano una tanica di benzina accanto alla porta d'entrata e danno fuoco. Un rogo di vaste proporzioni investe la casa. I figli di Mario Mattei, Stefano e Virgilio, muoiono dopo una lunga agonia. Il gruppo lascia un biglietto. Brigata Tanas, morte ai fascisti. Oggi Achille Lollo vive in Brasile, Marino Clavo in Svezia, Manlio Grillo in Nicaragua. Della strage di Primavalle non c'è ancora giustizia penale, come sottolinea Anna Mattei, madre di Stefano e Virgilio Mattei. Io dormivo con la mia famiglia e mai pensavo che mi facessero una cosa del genere. Io potevo pensare a una bastonata, a più cazzottoni, quello che veramente era una volta. Ma mai addirittura li sono venuti per ammazzarsi. Abbiamo fatto il giro degli ospedali, il giro del Camposanto, eravamo senza casa, non avevo più niente. Si dà il caso che noi eravamo 8 persone, non abbiamo ritrovato neanche il cambio delle mutande. Quindi che cosa gli devo dire? Che la giustizia in quel momento non è stata giustizia né per me, né per i miei figli morti, né per quelli vivi. Roma, via Ottaviano, 28 febbraio 1975, esterno, giorno. È la terza udienza del processo per la strage di Primavalle e davanti al tribunale si radunano militanti di Potere Operaio e giovani missini. In pochi minuti scoppiano duri scontri tra opposte fazioni. Davanti alla sezione missina di via Ottaviano viene ucciso Mikis Mantakas, studente, dirigente del FUAN, organizzazione degli universitari di destra. Milano, Piazza Castello, 28 febbraio 1975, esterno, giorno. E poco dopo la morte di Mikis Mantakas, i missini organizzano cortei e manifestazioni di protesta in tutta Italia. A Milano l'allora segretario del Fronte della Gioventù, Ignazio La Russa, tiene un comizio. Il comunismo non passerà! Il comunismo non passerà! Il Fronte della Gioventù non si limita a partecipare alle manifestazioni anticomuniste. Il Fronte della Gioventù è ogni giorno e ogni ora e ogni istante in prima linea nella battaglia al comunismo, e lo testimonia Gino Marco, ferito quasi a morte dai comunisti. Milano, via Amedeo 40, 13 marzo 1975, esterno, giorno. Sono le 13. Sergio Ramelli è uno studente dell'ITIS Molinari, un giovane militante del Fronte della Gioventù. Ramelli appoggia il motorino davanti alla sua abitazione. Militanti di Avanguardia Operaia attraversano la strada e lo aggrediscono a colpi di chiave inglese. Il ragazzo tenta di difendersi, proteggendosi il capo con le mani, ma viene colpito più volte e lasciato a terra esanime. Lo soccorrono alcuni passanti. Sergio Ramelli viene subito ricoverato al reparto Beretta del Policlinico di Milano. Muore il 29 aprile 1975 dopo una lunga agonia. E anni dopo Marco Costa, uno dei suoi aggressori, racconterà in questo modo l'omicidio. Sembrò un'eternità, ma in realtà erano pochi minuti di attesa. Ad un certo punto, girandomi, vidi il ragazzo Ramelli che stava parcheggiando il proprio motorino. E a quel punto diede una gomitata ad Aldo e ci avviamo. nel pezzo di strada brevissimo che ci separava da quel ragazzo, lui ci vide e io vidi lui. E quello fu per me il momento più tremendo, che ancora rivivo adesso. Perché in quel momento io lo vidi negli occhi e provai molte emozioni. Una delle emozioni era quella di dire: lasciamo perdere, andiamocene via subito, non si può. Non si può, perché in quel momento mi ero reso conto che una cosa erano i fascisti idealizzati come simbolo e un'altra cosa era il ragazzo che avevo di fronte, che era praticamente un mio coetaneo. Ma qui inizia la mia colpa, credo la mia colpa più grossa, quella di aver comunque continuato, di aver fatto appello a quell'altra forza che c'era in tutti noi, che era la forza dell'ideologia, e quindi di andare avanti. Mi ricordo che lui mi mostrò il viso, ma io non ebbi la forza di colpirlo al viso perché avevo paura di provocargli uno sfregio, di rompergli dei denti oppure rovinargli un occhio. Per cui cercai di colpirlo al capo in modo da stordirlo, perché quello era la cosa che si era prefissata di fare, stordirlo. E quindi cercai di farlo, non so con quanta forza lo feci. Di fatto però non riuscì nel mio intento, cademo per terra tutti e due perché il motorino che lui aveva fra le gambe si sbilanciò e finimmo per terra. E poi dopo ancora il ragazzo continuava a dire no, e in quello stesso momento da una finestra sopra una donna si mise a urlare, e a quel punto però io non ce l'ho più fatta a continuare questa mia azione, mi sono girato e sono scappato. Io ho sempre avuto la sensazione che in quegli anni ci fossimo dilaniati gli uni con gli altri, giovani contro giovani, ed è una cosa che non deve più ripetersi, è inaccettabile. Milano, Piazza Cavour, 16 aprile 1975, esterno, sera. C'è una manifestazione per la casa organizzata dai gruppi della sinistra extraparlamentare. Il neofascista Antonio Bragion estrae la pistola e spara contro una decina di giovani, quelli che sostano all'angolo tra Piazza Cavour e Via Turati. Muore il giovane di sinistra Claudio Baralli. Il compagno Baralli, passando da Piazza Cavour con altri compagni di ritorno da una manifestazione sulla casa, è stato fermato dalle cannoniere fasciste del Fuan, che lo hanno ucciso con una rivoltellata alla tempia. Milano, corso 22 marzo, 17 aprile 1975, esterno, giorno. Siamo poche ore dopo la morte di Claudio Baralli e una manifestazione punta dritta sulla sede missina di Via Mancini. Gli scontri si fanno durissimi e a quel punto un camion dei carabinieri investe ed uccide il giovane militante dei comitati antifascisti Giannino Zibecchi. E ciò che sentirete è il sonoro originale degli scontri di quel giorno. Milano, Via Mascagni, 25 maggio 1975, esterno, sera. Alberto Brasili e la sua fidanzata Lucia Corna stanno passeggiando per Piazza San Babila. Sono di sinistra, ma non dei militanti. Li seguono 5 missini. L'agguato scatta alle 22.30 proprio davanti alla sede provinciale dell'ANPI. Brasili viene ucciso, la sua compagna ferita in modo grave. Scarpe a punta, capelli a spazzola, cintura nera, vespino bianco con la bandiera tricolore sulla destra del cupolino. Così si vestono gli assassini di Alberto Brasili. Convoglio, provincia di Reggio Emilia. 12 giugno 1975, esterno, sera. Mancano 3 giorni alle elezioni amministrative e intorno alle 23 al Ceste Campanile, militante di lotta continua, si trova a Convoglio, proprio sulla strada che collega Montecchio a Sant'Ilario, in provincia di Reggio Emilia. viene giustiziato con due colpi di pistola e il dottor Francesco Fochi realizza la perizia autoptica sul corpo del giovane. La notte tra il 12 e il 13 giugno mi trovavo con alcuni amici, alcuni conoscenti, in un locale per mangiare un panino dopo aver passato la sera in una riunione a Reggio Emilia. Abbiamo avuto la sgradita sorpresa di avere una coppia di amici, marito e moglie, che di ritorno da una loro serata a Parma avevano rinvenuto sulla strada di Sant'Ilario il corpo di una persona apparentemente giovane, sicuramente o gravemente ferita o morta, per cui erano corsi in paese a chiedere aiuto a qualcuno. Siamo andati a vedere cosa era successo. È stato subito evidente che si trattava di un cadavere. Portava una camicia jeans e una ciubbino jeans, nonostante fosse abbastanza, però pioveva un po', quindi il caldo non era forte, e la giacca era spostata dalla linea mediana. Si vedeva sul taschino della camicia il segno di un foro e di una con bruciature intorno e una macchia di sangue molto modesta. Tra poco, dopo la pausa, continua il racconto di Giallo e Nero sugli anni 70. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Anni 70, storie di violenza e di omicidi rimasti in gran parte impuniti. Roma, via Prenestina, 29 ottobre 1975, esterno, giorno. Un gruppetto di ragazzi apre, come tutti i pomeriggi, la sezione Prenestino del Movimento Sociale Italiano. Giunge un'auto, un finestrino si abbassa, ne esce la canna segata di un fucile che esplode pochi rapidi colpi. Una scarica di pallettoni uccide sul colpo Mario Zicchieri, detto Cremino, studente lavoratore di 16 anni, e ferisce Mario Lucchetti, 15 anni. L'assassino di Mario Zicchieri non è mai stato trovato. La madre Anna Lidia Zicchieri è convinta però che sia stato Valerio Morucci, diventato poi uomo delle Brigate Rosse. Milano, via Goldoni, 27 aprile 1976, esterno, sera. La questura di Milano ha vietato le manifestazioni di destra nel primo anniversario dell'omicidio di Sergio Ramelli e in città la tensione è alta. Dalla sede di via Guerrini escono alcuni missini. A pochi passi, ragazzi di sinistra stanno affiggendo manifesti. Quelli di destra li aggrediscono. Uno di loro estrae un coltello a serramanico. L'arma passa tra le mani dei missini. Muore il militante dei comitati antifascisti Gaetano Amoroso, 21 anni. Vengono feriti Carlo Palma, 22 anni, e Luigi Spera, di 20 anni. Gilberto Cavallini, futuro terrorista dei nuclei armati rivoluzionari, è uno degli assassini di Gaetano Amoroso. Milano, Viale Lombardia, 29 aprile 1976, esterno, mattina. Sono le 7.45, l'avvocato Enrico Pedenovi, esponente del Movimento Sociale Italiano, moderato, esce dalla sua abitazione. Pedenovi sale sulla sua utilitaria. Si ferma dopo 100 metri al distributore di benzina. Tre giovani, a bordo di un'auto rubata, lo stanno osservando. Due di loro scendono, si avvicinano all'avvocato e lo uccidono. Poi fuggono verso Piazza Durante. Chicco Galmozzi, ideologo di prima linea, è condannato in via definitiva per l'omicidio di Enrico Pedenovi. Bologna, via Mascarella, 11 marzo 1977, esterno, giorno. Sono le 10 e all'Università di Bologna è programmata un'assemblea di comunione e liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo e cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri. Sotto il portico di via Mascarella avvengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano. Cade a terra, colpito a morte, il militante di lotta continua Francesco Lorusso. La notizia della morte del giovane compie il giro della città. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov, contorgipponi e macchine della polizia. Il ministro dell'interno, Francesco Cossiga, invia a Bologna l'esercito. L'emittente di movimento, Radio Alice, viene chiusa dalle forze dell'ordine e l'intervento avviene in diretta. C'è la polizia alla porta. Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate. Ecco, stiamo scappando, il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Roma, Piazza Navona, 12 maggio 1977, esterno, giorno. Il Partito Radicale chiama raccolta i militanti. C'è in programma una manifestazione. Gruppi di autonomi si scontrano con la polizia e partono le cariche. Agenti in borghese sparano contro i giovani. La 19enne Giorgiana Masi viene uccisa sul ponte Garibaldi. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini in diretta da Radio Radicale. Una cosa molto grave, dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché cammina anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, persone in borghese, difficilmente riconoscibili perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi un po' mezzi. Per passare per manifestanti armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere. Nonostante inchieste giudiziarie, parlamentari, numerose fotografie scattate quel giorno, nessun agente di polizia è stato condannato per l'omicidio di Giorgiana Masi. Roma, via H. Larenzia, 7 gennaio 1978, esterno, sera. Due ragazzi escono dalla sezione Missina di via H. Larenzia, nel quartiere del Tuscolano. Sono Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, 19 e 18 anni. Davanti alla sezione vengono affiancati da una Renault 4 rossa. Quattro giovani bloccano il loro passo, caricano una mitraglietta Scorpion e fanno fuoco. Franco Bigonzetti cade sul colpo, mentre Francesco Ciavatta viene portato a San Giovanni, dove spira dopo pochi minuti. La Renault 4 rossa si dilegua nel buio. La morte di Bigonzetti e Ciavatta scatena così la rivolta dei missini. Roma, via H. Larenzia, 7 gennaio 1978, esterno, sera. In pochi minuti via H. Larenzia viene travolta da ragazzi armati di bastoni e pistole che inseguono poliziotti mentre i carabinieri lanciano i loro lacrimogeni. In furia alla battaglia, ad un ufficiale dell'arma parte un colpo che toglie la vita a Stefano Recchioni, 19 anni. Per le morti di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta, Stefano Recchioni a oggi nessuna giustizia. Milano, via Mancinelli, 18 marzo 1978, esterno, sera. Due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro, sono le 20. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, 19 e 18 anni, escono da una trattoria. I due ragazzi percorrono via Lambrate. Poi, in piazza San Materno, voltano a sinistra. Camminano in via Casoretto. In via Mancinelli, all'altezza dell'Anderson School, qualcuno li chiama. Fausto e Lorenzo si trovano faccia a faccia davanti ai loro assassini. 9 colpi di calibro 7,65 fermano il loro cammino. Poco dopo, Radio Popolare di Milano interrompe le sue trasmissioni. Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Roncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra. Per il duplice omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi non c'è stato nessun processo. Archiviata la posizione giudiziaria di 3 estremisti di destra, ma l'indagine resta ancora aperta. Danila, madre di Fausto Tinelli, chiede ancora giustizia. Sono stati scelti per ammazzarli. Lei pensi che io abitavo in via Montenevoso e sopra di me avevo i servizi segreti, perciò è stata una scelta per sviare le indagini su Moro. Può darsi che abbia visto qualcosa, che quando si vede qualcosa può darsi che è destinato a scomparire. Quello non posso dirlo. So che eravamo seguiti io anche mio figlio, Altrimenti il giudice in 27 anni sarebbe venuto al dunque. Se fossero stati 2 fascistelli a ammazzarli, e il caso sarebbe risolto in 24 ore. Purtroppo è una cosa legata al terrorismo, infatti noi siamo vittime del terrorismo. Roma, quartiere Talenti, 22 febbraio 1980, esterno, giorno. Valerio Verbano è un giovane militante di Autonomia Operaia di Roma. 3 persone si presentano nella sua casa a Valmelaina. Nessun magistrato riuscirà mai a stabilire chi lo ha ucciso, ma quel giorno Rina Verbano, madre di Valerio, se lo ricorda bene. Ho sentito suonare alla porta, ho chiesto chi era, mi hanno detto: siamo amici di Valerio, vogliamo aspettarlo. Allora io ho aperto la porta, come ho aperto la porta ho visto 3 ombre, e una ho visto come un flash, aveva i capelli lunghi, ma si è messo subito il passamontagna, e anche gli altri ci hanno buttato sul letto, a me e mio marito, ci hanno legato, imbavagliato con lo scotch, quello da pacchi, e lì siamo rimasti. Lì per lì ho pensato fossero dei rapinatori, perché era già successo che erano venuti dei ladri qua vicino, ma poi ho cambiato subito, perché ho pensato subito che erano per Valerio, anche perché avevano cercato lui. E oggi il dolore di queste vite spezzate resta soprattutto nei loro familiari. In gran parte non hanno avuto giustizia e altri sono stati dimenticati. Sono solo alcune delle vittime della non memoria. A destra, Stefano Cecchetti, Alberto Giaquinto, Francesco Cecchin, Paolo Dinella, Carlo Falvella, Angelo Mancia, tutti a Roma. A Padova, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. A Torino, Roberto Crescenzio. A sinistra, Mariano Lupo a Parma, Luigi Di Rosa a Sezze Romano, Tonino a Torino, Adelchi a Grada, a Lamezia Terme. Danila Tinelli, madre del giovane di sinistra Fausto Tinelli. Anna Lidia Zicchieri, madre del ragazzo di destra Mario Zicchieri. Messe a confronto dal programma Le Iene, le loro parole fanno emergere il dolore di una stagione di sangue e di violenza. Maria Lidia, Danila, cognome, Zicchieri, Tinelli, madre di Mario, Fausto. Come sono morti i vostri figli? Assassinati in un agguato. Che giorno era? 29 ottobre 1975. 18 marzo 1978. Cosa è successo? È arrivato un comando e ha sparato a colpi di lupara. Un comando venuto da Roma ha ammazzato Fausto e il suo amico Iaio. È morto sul colpo? Ospedale, mentre lo portavano in ospedale. Quanti anni aveva? 17, 18. Come ha saputo la notizia? Mi hanno telefonato dicendomi che era ferito. È venuta la polizia. Quanti anni sono passati? 30. 27. Cosa ricorda di quel momento? I ricordi sono tanti, tutti orrendi. È un incubo. La sua prima reazione? Sono svenuta. Disperazione. Perché è stato ucciso suo figlio? Perché era un militante di destra. Noi dobbiamo chiedere a chi l'ha ucciso. Chi l'ha ucciso? persone di destra. Degli assassini. I nomi si sanno? Ci sono tre nomi, ma non si sa se sono loro. Penso che lo sanno tutti. Cosa glielo fa pensare che siano loro? Lo hanno ribadito in udienza del processo Moro. Ci sono delle prove. E hanno mai chiesto perdono? Un killer non chiederà mai perdono. No. Sono stati processati? Sono stati assolti. Non c'è stato mai nessun processo. Secondo lei si sono pentiti? No. Cosa possono fare per meritarsi il perdono? Niente. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Sonorizzazione Peter Bescapè.